andare a rubare per fare una rapina, l'hanno accolto la strada, guarda che è in vita. Vuol dire, no, ma l'hai da tre giorni. Sono videolinare. Quello tiene oppure arriva la radio quella a me qua, eh. Tu tieni o è il più audio bene anche Gianni a te. Sì, è una bella radio quella, io l'ho avuta. È una bella radio, favolosa come radio. Però dici, devi ricordare una cosa, che io con la radio sono a metà. No, senti, se io alzo esplode. E lo senti, oh, va bene, va bene. No, va bene la tua, però la sua è più bassa. Il segnale poi c'è la radio, la sento più forte, mi. Però arriva più come volume, la sento più forte, capito? È chiara, comunque è chiara. Chiara sia la tua che la sua, è abbastanza chiara quella di Eugenio, Allora adesso la radio mia, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Non ti credere, no. Andava bene anche prima, perché se tu spingi molto tende a collo, capito? Tende. No, va bene Gianni, non è che non arrivi, no? Io ti ho detto poco fa che tu comprimi tutto il QRM che c'era quando modulavi. Adesso se va bene, dici, da poco fa che avevo regolato di nuovo adesso. Ottima direi. Allora, avanti, Silvestrino, che cosa fai di bellino? Sì, la vita è tutto qui. Brava. Angelo vuole far piovere stasera, mi aspetta domani, Luigi. Sì, un'informazione mi serve, così, a titolo curiosità, se me la puoi dare. Con chi c'hai, con me? Ehi, Eugenio, sei tu, Eugenio? Sì, sono lì, mi dici. Ascolta, quella nave di Marsiglia, quella, diciamo, che va a Propriano, ma c'è qualche nave che viene da Propriano pure Torre, che a me non mi risulta, ma c'è qualche nave che viene da Propriano pure Torre, se. Propriano Portatore, Propriano Marsiglia. Marsiglia Porto Torres. Aspetta, non ti ho seguito. Allora, questa che va a Propriano l'ho vista, perché siamo scesi noi e salgono quelle va a Marsiglia. Ma da Marsiglia dove torna? A Propriano viene a Porto Torres. Porto Torres? Ecco, da Propriano qui non viene a Porto Torres allora. No? Da Propriano va a Marsiglia. E poi da Marsiglia scende a Porto Torres. Ho capito, ecco, se tu da Propriano vuoi venire a Porto Torres devi andare a Marsiglia. Esattamente, se non aspetti il giro della nave, capito? Ma quale giro? Allora c'è un giorno che viene da Propriano a Porto Torres. Sì, c'è un giorno che viene da Propriano a Porto Torres. Che giorno è? Il giovedì mi pare. Stateci un po', aspetta un attimo, no, giovedì, quello è preso martedì, perché parte il martedì va a Propriano, poi scende da lì caricando per Marsiglia, e va a Marsiglia, la Marsiglia, se va a Propriano deve venire, no, allora non combacia neanche, perché se no poi mercoledì lui torna dove? A Propriano, perché a Porto Torres non c'è mercoledì, c'è mercoledì a Porto Torres, no? No, ma il mercoledì non c'è a Porto Torres, c'è il martedì e il giovedì. Era sentito le curiosità, no? Da una domanda, gli animali ghiaccio non vedo una cosa che torna, andando via torna a nove. Buona Bianca, la Napoli buona parte, la Daniel Casanova, che fa la diretta, Porto Torres Marsiglia. E quanto volevo dire, perché tanto nelle cisterne non scendono, le caricate voi quelle del cemento, ma scende le vuote non le scendete mai voi lì a Porto Torres. Voi non lo so se sono vuote o meno. Beh, se sì, le vuote le scendiamo, le cisterne. Ci sono quei due ragazzi, quei due fratelli di Cagliari che le caricano piene e le riportano giù vuote. Sì. Ma noi che fate lo giro di Marsiglia e torna a Rocche, no? Ah, non lo so, in Dianda, loro imbarcano per Propriano. Però visto già che vanno per Propriano cariche, ma molte vedo che vanno su a, come si chiama, a Porto Vecchio. Non lo so poi su il giro che facciano, non lo so. Ancora non ho capito niente di questo giro di navi di qua. E mercoledì ritorna a Propriano e ritorna a Marsiglia. E giovedì fa Marsiglia, Propriano, Porto Torres. Ora sì, siamo sì, poi c'è Marsiglia a Torone. Ho capito. Invece quella di Aiaccio, da dove viene? Per Aiaccio, ce n'è una del Aiaccio, ho visto. E quella non viene a Pronto, spero. No, invece da dove parte da Marsiglia, da dove parte quella a Torone, da dove parte? Sempre a Marsiglia. Perché ho visto la nave entrando al porto di Aiaccio, ero lì vicino. La mattina ho visto stava attraccando la nave. Però non so se è venuta da Marsiglia o da Torone, da qualche posto. Allora, tutte le navi, tutte le linee che fanno la Corsica fanno sosta a Marsiglia. E poi da lì fanno doppiano, fanno Aiaccio, fanno Torone, capito? Quanto ci impiega da Propiano a Marsiglia, lo sai, oggi ho capito quello di tasse. Dovrebbe impiegarci, mi hai detto Propiano a Marsiglia? Una mezz'ora di attraversata, un'ora, due e mezzo. Nessuno, è molto vicino, sono vicino, sono vicino. Proprio meno. Lei è uno piccolo sembra che chiamo al negozio. Dopo nuovo. Vometro e amperometro. Perché la cosa di regalato di chi si non è la mia idea? Li ho tutti regalati, anche forse i più potenti di quelli lì. E ho regalato a Pinocchio, l'ho regalato a Rita, l'ho regalato a Tommaso Cifa, l'ho regalato Pinocchio il Moro. L'ho regalato un po' a tutti di quella alimentatura, capito? E niente, anzi, ho regalato uno che ti dico che l'ha fatto, era di quelli si Ampere, però fatto più potente, mi ha cambiato tutto dentro. No, io ce l'ho e me ne serve uno a me più grosso, hai capito oggi? A me me ne serve uno più grosso, molto più grosso. Va bene, io ce l'ho, facciamo il cambio. Con gli strumenti ce l'hai? Ma cosa c'hai tu per quelli di grosso? Cosa c'hai? Un alimentatore di 10 ampere, bello grosso, spesso, più grande di questo che ho qua. Ce lo uso per alimentarmi il VHF che uso per lavoro. Questo lo porto all'alimentatore del coso, del VHF, e tu mi dai un alimentatore che abbia almeno uno strumento, io giro quello là. Ok, stiamo parlando, no, io non sto parlando di 8 ampere, di 10 ampere, io quelli che ho io, ce l'ho, questo che ho qua è da 25 ampere addirittura, io sto cercando più grosso, io non me ne faccio nulla, io regaleggio questi cuscini, quando mettono in mano il regalo non me ne faccio nulla, capito? Io di sotto di 20 ampere non me ne faccio niente, capito? Non è rompere io più, e forse non hai capito, non gli adopro così picco, quando ce l'avevo qualcuno, l'ho regalato. Io quelli che ho tutti superiori, uno che è quasi 30, uno da 30 ampere quasi, e uno da 25 e un altro grande ne ho, più di 10, che sarà una 15 ampere, capito? E mi servono tutti e tre, però mi serve un altro più grosso ancora di questi, capito? Uno da 50 ampere me ne serve. No, ricordo una cosa, due piccoli, due così li puoi mettere assieme, mi capito? E ne fai uno solo. Ho capito, ma sono in istanze separate, capito? Perché il VHF io ce l'ho in camera da letto. L'ascolto, lo accendo quando navi la macchina presto e rimango a letto così, capito? Vabbè. Non fa niente, perché quando schiaccio qua si abbassa la luce, ed è a manetta, si abbassa la luce sia il baracchino che l'alimentatore. E non che ho abbassa ruta, non lo abbassa qua. Cioè, questo non ce la fa, dai. Cioè, già ce la fa, già va bene, però si abbassa un po' di luce. E faccio il baracchino cieco, al buio. Un po' di mercanzia, roba per cucinare, i salami. mi ha fatto il comandante, mi ha fatto accomodare sciocca, era più soffante il mocchetto, mi ha fatto cenare, mi hanno fatto il caffè, il tè, e mi hanno regalato una stecca di cigarette e tutto. Positivo, in caso di giornale con la rapida ci te ne davano secche, quanto ne volessi, secche di sigarette, tu gli davi un giornale e lui ti dava la secca di sigarette, se tu gli procuravi un giornale pornografico mi diceva che cosa ti do di giusto. Ma la tua casa è vedi quelle fibre, quelle cose, quelle rigine del marciare, cioè, davano un maio di cose, di giornali pornografici loro, allora davano tutta una marciata di giornali pornografici, io le andavo là, facevamo il viaggio, no? Andavo e tornavo, andavo, lo caricavo e tornavo, e gli davo il giornale e mi davano le secche di sigarette, capito? E lì mi avevo fatto roba di 30 secche, la giornata, me ne ho preso con questi giornali. Ma si va a e sono coperte le donne, non riescono a vedere cose così, sono proibite da loro. Stati infatti, ma se lo fanno per... No, se te lo chiedevano subito giornali, poi ci facevano capire, ma non giornali pornografici. Ma non so se... Ma davvero, ti giuro, è una cosa impressionante. No, il giornale, adesso te ne va a lavare, tutti burrati a fare, dalla madre, lo prosecco, se lo qualcosa, fino a questo, sacare il giornale. Lucidante. E c'è un gollaccio con le cigarette, ma cosa fuci? Io fumavo, allora c'era le cigarette, erano corte e grosse. Positivo. Ora c'è entrato Massimiliano, volevo sentire il parere suo di questo apparato, ragazzi, se va bene, se va male. Ecco, come ti sembra, già, giusto come gli altri o... Cosa? Ma sei attaccata adesso? Sono attaccato, no, però chi non sono, però con 4 volte di portante bianca. Allora io adesso ti stavo controllando e invece che 500 sei 540, di 4 si è spostato appena. Sono spostato di 4. Non lo so, in avanti o indietro, guarda adesso che l'ho spostato le cose appena. Ah, io adesso mi sono accentrato al 100%. Guarda, vedete, allora io ho appena girata questa cosa, così dovrebbe essere al centro-centro, guarda, poi non lo so com'è lì, Sì, adesso va bene, sì. È perfetto, perché prima era così, guarda già, era così. La levetta era appena, com'è adesso? Così, era così. Allora, fammi il passaggio della prima e quello di adesso. Allora, così, quasi a centro. Era prima, era così, dai. Era così in questa posizione. Ma la radio non era chiara, non è chiara. Se vogliamo essere pignoli, c'è un puntino di cosa, di saturazione, vedi, appena. Guarda adesso se c'è ancora saturazione, perché se no vorrebbe leggermente abbassato di fatti aumentati, capisci? Così adesso è perfetto. La cosa è che io appena, perché guarda, così è tutto aperto, amici, vedi, così è tutto aperto. E questo è l'altro che l'ho appena un po' chiuso, vedi, così è chiuso. Come se quello passaggio adesso mi sembra che sia più sacro, più buco. Mi sembra che dovrei il macchinese, a parte 60 milioni, riprova. Il macchinese così è... Allora, così è tutto aperto, Gianni, così l'abbiamo tutto aperto, cambio... Lasciamo così, dici. Allora, già. Ma è tutto aperto, va bene, dici. Tutto aperto. Vabbè, tutto aperto, la modulazione è chiara. E dimmi se c'è entrato come coso, se siamo giusti come frequenza, vedi un po' cambio. Adesso va bene. Centro è qua, dai, già. È a centro, va bene col bicchiere aperto allora, non lo so io, va bene. Sì, va bene, col bicchiere aperto perché nell'altro passaggio si sentiva leggermente... compressa, mi capisci? Non era, non vibrava bene la radio, quindi chiusa la sentiva. Ma era chiusa il micchiglio però. Ecco, il micchiglio era aperto, invece ti libera proprio tutta la radio bene ed è limpia la radio. Poi sì, quando te ne trovo il brutto, tu mi dici, questo è quello che ha fatto Roberto, capisci? Cos'è il brutto? Più lunga, più diciamo, non lasciava più scia. Positivo, così non è vero, l'obbligo. Sempre tagliata. Con la cinta allungare, come diciamo, effetto di cotte, allora, con l'effetto di cotte, quello che lascia tutta la scia che fa cambi. Gigi, linea. Va bene questo punto. Sì, sì, è bello. Non sa. Ma va meglio dell'altro, di quell'altro là. Mi sembra di sì, mi sembra di essere più presente a questo. Sì, ma questo è una cosa di testa, questo spinge, questo sono mai già fatti a corso, già. Questo ho fatti, già c'è lo super di mito per tanto a quello là. Vabbè. Non so che cosa fa. Yeah.